Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buonasera e ben ritrovati a Radio Doc. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, Trieste è contesa da Italia e Jugoslavia. Occupata dalle truppe anglo-americane, la città ha due volti. Da un lato, i lavori di ricostruzione, dall'altro la voglia di svago, alimentata dai miti americani e da eroi locali come il pugile italiano Tiberio Mitri. Vi segnaliamo che la versione integrale del radiodocumentario che state per ascoltare andrà in onda su History Channel venerdì 27 marzo alle 21. Italiani, slavi, tedeschi, Trieste è sempre stato un crogiuolo di etnie, ma ormai non convivono più tanto facilmente. Dopo l'8 settembre del 43, da quando Hitler ha annesso al Terzo Reich la Venezia Giulia, il podestà Friedrich Rainer ha governato la regione con il pugno di ferro. Le tragedie non finiscono con la guerra. Col Trattato di Parigi, l'Italia, che è una nazione sconfitta, deve cedere l'Istria alla Jugoslavia. Le conseguenze sono drammatiche. Circa 350.000 persone sono costrette a lasciare le loro terre e a rifugiarsi entro i nuovi confini italiani. Trieste è il passaggio obbligato di questo esodo massiccio, cominciato già dal 2 maggio del 45, quando il capo dei partigiani, Tito, generale delle truppe jugoslave, aveva occupato la città per 43 giorni. In questo periodo molti italiani vengono accusati dai miliziani di Tito di collaborazionismo coi fascisti e gettati vivi nelle foibe, delle profonde gole carsiche che si aprono negli altipiani intorno a Trieste. Il ricordo di quegli eccidi è ancora vivido, ma tra i testimoni di quei fatti permangono versioni contrastanti. Ancora oggi si discute animatamente sulle responsabilità e sulle proporzioni di questo genocidio. Comunque, secondo le stime più attendibili, sono almeno 5.000 le vittime dei massacri nelle foibe. Nei primi giorni dell'occupazione jugoslava, basta un semplice cenno del capo di un informatore per finire scaraventati in una foiba. Il 12 giugno 1945 arrivano in città gli americani e gli inglesi e i massacri cessano immediatamente. I nuovi arrivati vengono accolti con affetto dalla popolazione locale, soprattutto gli americani, più espansivi e generosi degli inglesi, che hanno fama di essere freddi e repressivi. Gli americani, del resto, vigilano sui confini e proteggono Trieste dal rischio di invasione jugoslava, mentre gli inglesi hanno l'ingrato compito di assicurare l'ordine pubblico in una città ancora lacerata dai postumi della guerra. Gli scontri di piazza tra la maggioranza italiana della città e la popolazione slava degli altipiani sono all'ordine del giorno. Trieste è affamata, come tutta l'Europa, dopo la guerra. In un momento così delicato, gli americani soddisfano le prime necessità. Molti trovano anche un lavoro, come Anna Maria Colli, che vende giornali al Circolo Ufficiali. Il giorno dopo che sono entrati gli americani in città, abbiamo avuto il pane bianco nelle panetterie. Il mondo sta cambiando. Le grandi potenze che hanno combattuto insieme il nazifascismo non sono più unite fra loro. A Trieste e nella Venezia Giulia si avvertono le prime avvisaglie della guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Tiberio Mitri non si interessa molto a questo genere di questioni. Ha perso il padre a 10 anni ed è cresciuto tra miseria, piccoli furti e risse al riformatorio, dove tirare pugni è un esercizio quotidiano. Non ha ancora 18 anni quando viene mandato nel campo di concentramento di San Sabba e per uscirne decide di entrare nella milizia fascista, con l'unica convinzione politica di salvare la pelle. Dopo la guerra si trasferisce con la madre nel rione popolare di San Giacomo. La povertà è palpabile in quelle periferie industriali, a maggior ragione dopo il dramma dei bombardamenti sul porto e sui cantieri navali. Tiberio vive di espedienti e guarda anche lui con ammirazione i ragazzotti americani da poco insediatisi in città. Fa il panettiere, il cromatore, il barista, viene spesso licenziato per il suo carattere scontroso e per sfogarsi si rifugia in palestra. Agli inizi del 1946 Mitri diventa pugile professionista. Le sue speranze di riscatto si rafforzano e così anche quelle della sua città. Dopo 6 mesi di governo militare alleato, la zona costiera di Trieste viene suddivisa in zona A, sotto amministrazione alleata, e zona B, sotto quella jugoslava. Insieme si chiamano Territorio Libero di Trieste. Per la popolazione prevalentemente italiana della città, lo spauracchio del pericolo slavo si allontana. Ma il conflitto politico tra Italia e Jugoslavia continuerà per molti anni. In breve tempo, Trieste diventa anche un grande mercato di prodotti occidentali. In Europa centrale manca tutto. Ungheresi, cechi, austriaci, tedeschi e jugoslavi si riversano sulla città e alimentano il mercato nero. A Trieste sembrano allontanarsi più velocemente le ristrettezze di cui soffre il resto d'Italia, uscita a pezzi dalla guerra e in cerca di riscatto. Questo nuovo giro di denaro in città innesca poi un vero e proprio boom edilizio. Come accade spesso in questi casi, comincia a diffondersi la corruzione. Lo scandalo edilizio costa il posto al primo comandante delle forze armate alleate in città, il colonnello americano Alfred Bowman, un avvocato newyorkese senza troppi scrupoli. Bowman viene sostituito da Sir Terence Ayley, un filantropo inglese amante della cultura e della storia d'Italia. Intanto, per fornire svaghi al contingente alleato di circa 10.000 uomini, viene aperto l'Hangar Club sul fronte del porto. Come nella favola di Esopo, mentre il resto d'Italia, impegnato nella ricostruzione, fa la parte della formica, Trieste recita il ruolo della cicala, approfittando della presenza americana e del suo status di perseguitata politica. Nell'Hangar Club, infatti, si organizzano grandi spettacoli e concerti. All'Hangar Club si allestisce spesso un ring dove lo stesso Tiberio Mitri, ormai chiamato in città il re del KO, disputa molti dei suoi incontri. Il 14 marzo del 1948 Mitri vince senza problemi contro Michele Marini, all'epoca titolo italiano dei pesi medi. Ai soldati alleati di stanza a Trieste piace vedere Mitri combattere sul ring, ma oltre alla box arrivano in città anche altri sport americani che diventano subito popolari. Dal 1948 per la città di Trieste inizia un periodo straordinario. Grazie al denaro messo in circolo dai militari presenti in città da 3 anni e ai prodotti americani che transitano nel porto, Trieste vive un vero e proprio boom anticipato rispetto al resto d'Europa. Le prime elezioni repubblicane nella storia d'Italia sono alle porte, avverranno il 18 aprile del 48. Con la vittoria schiacciante della Democrazia Cristiana, l'Italia si conferma saldamente nell'orbita occidentale e diventa impossibile raggiungere un accordo su Trieste con la Jugoslavia di Tito. Si fa largo persino l'idea di una Trieste paradiso fiscale, con una sua autonomia come il Principato di Monaco. Ma nel 1949 avviene un fatto inaspettato a complicare le mire italiane sulla città: la rottura tra Tito e Stalin all'interno del blocco comunista. Lino Carpentieri, storico. Noi qua, ingenui come eravamo tutti contenti di questo fatto. Invece le cose cambiarono in peggio per noi, per gli italiani, in quanto l'America aveva molto più interesse a riconquistare Tito alla sua parte che non a accontentare l'Italia, specialmente dopo che le elezioni erano andate il 18 aprile come andarono. Bisogna dunque mantenere lo status quo a Trieste, anche perché Stalin incarica il comunista Vittorio Vidali di schierare il partito su posizioni pro-sovietiche, in aperto conflitto con quelle di Tito. I giornali triestini però non si occupano molto di questi problemi. C'è una notizia che fa più gola nell'incertezza di quei giorni. La bellezza locale Fulvia Franco è diventata Miss Italia e i rotocalchi si sbizzarriscono sulla sua fresca storia d'amore con Tiberio Mitri. Mitri ormai è diventato un beniamino anche dei militari americani a Trieste, con un record di 19 vittorie e 0 sconfitte. Dopo la vittoria del titolo continentale contro il pugile belga Delannoy, è la nuova star del pugilato europeo. È il 7 maggio del 1949. Trieste è invisibilio. L'incontro dei triestini con i giovani soldati americani scatena un'esplosione di feste e divertimenti. Si organizzano in tempo record club e sale da ballo, dove imperversano i ritmi moderni. Si imparano in fretta il tip-tap, il boogie-woogie e il foxtrot. Con gli americani che occupano Trieste, i Blue Jeans cominciano ad andare a ruba e da Trieste invadono il resto dell'Europa, diventando ben presto il simbolo dello stile di vita made in USA. Ma anche gli americani sono interessati a un prodotto tutto locale. Nel giro di pochi anni, ben 3.000 ragazze convolano a nozze con i soldati di passaggio in città. Il 15 gennaio 1950, anche Tiberio Mitri si sposa con la sua Fulvia. Nella piazza davanti alla chiesa di Sant'Antonio Nuovo, il matrimonio è un bagno di folla. L'atmosfera in città è sempre più distaccata dalla realtà del resto d'Italia, che lavora sodo per uscire dagli incubi della guerra. In questo periodo di incertezza e di conflitti interni, la valvola di sfogo è il divertimento. I triestini sembrano non curarsi del loro destino e vivono pensando solo al quotidiano. Radio Service e British Force Station trasmettono il jazz più d'avanguardia. E poi c'è Louis Armstrong che passa a Trieste col suo tour, suonando come molte altre celebrità all'Hangar Club. Ma se l'America va a Trieste, la giovanissima Fulvia Franco, come tante sue coetanee, vuole andare in America. Insiste molto affinché Tiberio accetti di combattere a New York il prima possibile. Sogna una carriera a Hollywood, sperando di sfruttare il vantaggio di essere Miss Italia e la moglie di una star dello sport come Tiberio Mitri. Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario. La storia personale di Tiberio Mitri si intreccia con quella della sua città, Trieste. Dal successo al declino, la parabola della vita del pugile è simile a quella di Trieste nel secondo dopoguerra. Mitri è venuto in America con lo scopo di contendere il campionato del mondo pesi medi. L'occasione gli si è presentata prima di quanto credeva. Il suo nuovo allenatore Lanny vuole abituarlo a una tecnica più all'americana. Il colpo breve, senza arco, la tattica dello scivolatore che non consuma energia nello schivare il colpo. Prima di partire per l'America, in 53 incontri da professionista, Mitri è tuttora imbattuto ed è secondo a livello mondiale nella categoria dei pesi medi. Intanto si avvicina lentamente la fatidica data della sfida col suo rivale più temibile, il campione del mondo dei pesi medi, Jack LaMotta. Ecco il cinegiornale originale trasmesso in Italia dopo l'incontro. Le due mogli assistono al combattimento acceso senza preamboli. Mitri, calzoncini bianchi, è ancora un po' legato. Il toro del Bronx assalta. Adesso l'americano piazza i suoi pesanti colpi di falce. Tira alla faccia, al plesso solare. LaMotta impone il suo stile. Ormai l'incontro è suo. Vincerà ai punti. È la prima volta che Tiberio perde. Chiedo una prossima rivincita, dice, per quando conoscerò meglio la box americana. È il 12 luglio 1950 e Tiberio porterà le conseguenze della sconfitta per tutta la vita. Intanto si concentra a cercare una rivincita, convinto dell'appoggio dei suoi manager e degli organizzatori del Madison Square Garden. Nei primi anni 50, la leggerezza della vita quotidiana a Trieste sembra stonare con un clima politico che si fa sempre più pesante. Con il passare dei mesi, il futuro di Trieste si prospetta sempre più grigio, come per Tiberio e Fulvia. Per il pugile, in America, non ci sono più prospettive, se non in incontri minori e rischiosi con i picchiatori del fumoso mondo delle scommesse, gestito dal gangster Frankie Carbo. Tiberio e Fulvia pensano di rientrare in Italia, ma un contratto capestro lega Mitri al Madison Square Garden e il pugile riesce a lasciare l'America soltanto in maniera rocambolesca. Ce lo racconta sua sorella Gianna. Aveva scritto una lettera a mia mamma dicendo che fingesse di star male e di farlo richiamare. È il dicembre del 1950. Tiberio e Fulvia arrivano finalmente a Trieste accolti dalla folla. Il 19 marzo 1951, al comando delle forze alleate a Trieste, viene nominato il generale inglese Thomas Winterton. Tiberio e Fulvia, poco dopo la nascita del loro primo figlio Alessandro, lasciano nuovamente Trieste. La città si sta svegliando a fatica dal suo sogno. Sta cambiando e i due decidono di andarsene e tentare la fortuna a Roma. Dal loro esilio romano, Tiberio e Fulvia osservano attoniti ciò che succede nell'autunno del 1953 a Trieste e che cambierà il volto della loro città. È il 4 novembre 1953. Una manifestazione organizzata dal Comitato per la Difesa e l'Italianità di Trieste e dell'Istria parte dal sacrario della Prima Guerra Mondiale di Re di Puglia. La folla si ingrossa e partono i primi rabbiosi slogan. Scattano le misure di prevenzione approntate dal generale Winterton. La polizia civile comincia ad effettuare i primi arresti, mentre sale il numero dei feriti. Alla fine dei 3 giorni di guerriglia urbana si contano 6 morti civili e 79 feriti tra le forze dell'ordine. Ormai a Trieste sono in molti ad aspettarsi una svolta autoritaria, dopo alcuni anni di vita spensierata sotto l'ala protettiva dell'occupazione americana. La città riesce a trovare una vena di entusiasmo con il ritorno di Tiberio Mitri sul ring, dopo più di 3 anni dal suo rientro in patria. È il 2 maggio 1954. Mitri conquista il suo secondo titolo europeo, sconfiggendo l'inglese Randy Tarpin, già nella prima ripresa. Il trionfo di Mitri, dopo anni di delusioni, è purtroppo effimero e non appiana le incomprensioni fra lui e Fulvia. Le scappatelle, il carattere irascibile e la gelosia di Mitri aumentano quando comincia ad abusare di alcolici. Se per Tiberio le cose stanno andando male, a Trieste invece, inaspettatamente, la situazione cambia in meglio. Dopo gli scontri e i morti, Italia e Jugoslavia trovano finalmente un accordo. Il 26 ottobre 1954, quasi un anno dopo i drammatici scontri, con una Trieste addobbata a festa, il comandante delle forze alleate, Winterton, abbandona la città quasi in sordina. Lo stesso giorno arrivano in città il presidente della Repubblica Einaudi e il presidente del Consiglio Mario Scelba. Finalmente l'Italia è riuscita a riconquistare l'agognata Trieste e la soddisfazione è sulla faccia di tutti. Con la partenza dei circa 10.000 soldati inglesi e americani, Trieste vede una perdita giornaliera di 25 milioni di lire dell'epoca e un aumento esponenziale della disoccupazione. In molti hanno lasciato Trieste con la partenza degli americani, a partire dalle oltre 3.000 ragazze che hanno sposato militari statunitensi. Contrariamente alla tendenza del nostro tempo, ci sono stati pochissimi divorzi tra queste coppie formatesi giovanissime e spesso molto in fretta, sull'onda di un'indimenticabile ed emozionante euforia. Tiberio Mitri e Fulvia Franco invece si separano, concludendo così la loro tempestosa avventura, sebbene la sorella del pugile ci metta la mano sul fuoco che in realtà non abbiano mai smesso di amarsi. L'avvocato che firmava la separazione legale di loro due, non si sono mai divorziati, aveva detto come finale: si sono lasciati ma sono sempre innamorati. La Fulvia, una volta che io ero a Roma, aveva chiamato Tiberio e Tiberio mi ha detto: vai tu al telefono per piacere. E la Fulvia ha sentito la mia voce e ho chiesto: chi parla, prego? Qui parla la signora Mitri, la moglie di Tiberio Mitri, erano già divisi da tanti anni. Anche Trieste americana non c'è più. È tornata all'Italia, che se ne dimentica quasi subito dopo averla tanto rivendicata. L'Italia, che è riuscita a impadronirsene, non sa più che farsene. Trieste, proprio come la cicala della favola di Esopo, diventa un peso affamato per la formica Italia. Anche Mitri forse non appartiene a nessun luogo. Piace alle donne e viene odiato dagli avversari sul ring. Dopo il ritorno di Trieste all'Italia, neanche a farlo apposta, anche la sua parabola dorata si conclude. L'alcol ormai non lo abbandona più, subisce una condanna al carcere per furto e deve sopportare il lutto tremendo della perdita dei suoi figli Alex e Tiberia. Vive ormai di una misera pensione, a volte ospitato da vecchi amici, a cui racconta del suo addio al ring. Probabilmente ci ripensa anche durante le molte notti che passa all'addiaccio, con una bottiglia di whisky in mano, vagando confuso per le periferie romane. Tiberio Mitri muore il 12 febbraio del 2001 travolto da un treno. Il suo mito rivive ancora ogni volta che si ricorda la Trieste americana, giovane e irruenta, dell'immediato dopoguerra. Vi segnaliamo che la versione integrale del radiodocumentario andrà in onda su History Channel venerdì 27 marzo alle 21, col titolo Trieste, un ring sull'Adriatico. Un ringraziamento in redazione a Vittoria Mussini. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.